desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. De tu querida presencia, comandante Che Guevara. La brisa, comandante, con soles de primavera, comandante, para plantar la bandera, comandante, con la luz de tu sonrisa, tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. De tu querida presencia, comandante Che Guevara. Ed eccoci di nuovo in diretta. Quest'oggi qui negli studi di Radio Onda Rossa abbiamo ospiti tre compagni, due compagni e una compagna di Italia Nicaragua, l'associazione che da svariati anni si occupa di Nicaragua e porta la solidarietà internazionalista di vari comitati italiani in questo paese del Centro America, che abbiamo già avuto modo di avere qui ospiti in trasmissione. Anche oggi cercheremo di fare un po' una panoramica di quello che si sta muovendo in Nicaragua, paese che dal 2006 è di nuovo governato dal Fronte Sandinista di Liberazione Nazionale, Fronte Sandinista che negli anni 80 era arrivato al potere dopo una lotta di liberazione armata contro il dittatore Somoza, e che poi aveva lasciato il governo del paese nel 1990 al termine, dopo una delle elezioni in cui furono sconfitte, elezioni che persero soprattutto perché la popolazione cercava in quel modo di porre fine allo stato di guerra che gli Stati Uniti avevano portato nel paese governato dai Sandinisti attraverso delle squadre paramilitari di i cosiddetti Contras, che venivano lanciati nel paese centroamericano dall'Honduras e dagli altri paesi confinanti. Quindi dal 2006 il Fronte Sandinista è tornato al potere e quest'anno si avvia alla scadenza il mandato del presidente Daniel Ortega, quindi ci saranno di nuovo le elezioni. Cerchiamo un po' di fare con i compagni qui in studio un bilancio di questi anni, una panoramica della situazione in vista delle elezioni presidenziali di quest'anno. Non so se appunto vogliamo iniziare subito la trasmissione oppure mando rapidamente una pausa, la prima pausa musicale del... La facciamo così vi rilassate un attimo la mente e le orecchie prima di incominciare a assorbirvi le nostre analisi lunghe e tormentate. Chi sta nel cane? Ponese il guardamonte. Te che il cane dijéramos así, con un hoyo, ¿dónde voy a ensamblarte? Agarras el cane así, le das este lado y clan. Entonces sale la caja todo y te queda el cuerpo del arma. Entre todos los fusiles este Garand es la ley. El cañón de su calibre tiene 30.06. Si usted quiere desarmarlo, siga al pelo esta instrucción. Levante bien las dos cejas, pare las orejas y oiga esta canción. Hasta 5 cuadras llega su tremendo proyectil. Pesa 10 libras completas, 8 tiros tiene el clip. El Garand está compuesto por 3 piezas y estas son: caja de los mecanismos, cilindro de gases y el mero cañón. Ante todo coloquemos las piezas de este fusil en alineación bien hecha de izquierda a derecha, que es mejor así. Quitemos primero el peine, hagamos bien la inspección, porque a veces vale en boca, esto nos provoca la peor situación. Entre todos los fusiles este Garand es la ley. El cañón de su calibre tiene 30.06. Si usted quiere desarmarlo, siga al pelo esta instrucción. Levante bien las dos cejas, pare las orejas y oiga esta canción. ¡Repújele! Tomamos el guardamonte del gatillo, sí señor. Hacia abajo y atrásito viene chorreadito su disparador. Separemos al instante la culata del cañón. El guardamonte agarremos y desenrosquemos del gas el tapón. Desenchufemos ahora todito el obturador. Vamos al siguiente pase y el cilindro de gas es quito de un envión. Sacamos seguidamente el guardamano inferior y empujando la varilla la parto del brazo del elevador. Entre todos los fusiles este Garand es la ley. El cañón de su calibre tiene 30.06. Si usted quiere desarmarlo, siga el pelo esta instrucción. Levante bien las dos cejas, pare las orejas y oiga esta canción. El manubrio y el cerrojo tienen su separación. Y este cerrojo bendito sale talladito de su posición. Y de este modo, compitas, se acaba la operación. El fusil ahora armemos para que acabemos con el opresor. De entre todos los fusiles, este Garan es la ley. El cañón de su calibre tiene 30.06. Si usted quiere desarmarlo, siga al pelo esta instrucción. Levante bien las dos cejas, pare las orejas y oiga esta canción. Ahora sí nos vamos, compita. Cada responsable a su buzón. Como quien dice, cada lora a su guanacaste. ¡No fui! E allora iniziamo a fare questa panoramica della situazione sul Nicaragua con i compagni dell'Associazione Italia Nicaragua. Allora, buonasera a tutte le persone in ascolto. Prima di tutto, sì, siamo in una una fase di cerniera, perché si sta concludendo il mandato di Daniele Ortega. Che appunto, come si ricordava prima, ha rivinto le elezioni nel 2006 in attesa delle nuove elezioni presidenziali che si terranno a novembre di quest'anno. Quindi diciamo che siamo in una fase quasi ideale per fare un po' il bilancio e vedere cosa si presenta nello stretto immediato. Insomma, stare a quello che sono i numeri diramati dal governo, il Nicaragua è cresciuto sotto tutti i punti di vista. Quindi c'è stata una crescita economica, malgrado un periodo di crisi mondiale che c'è stato qualche anno fa e che comunque continua ancora. C'è stata una crescita dal punto di vista della partecipazione della popolazione, c'è stata una crescita dal punto di vista quindi sociale, una crescita anche dal punto di vista politico. Questo significa che, stando ai cari sondaggi, quello che quasi sicuramente sarà il candidato presidenziale alle elezioni di novembre, appunto Daniel Ortega, il Frente Sandinista di Liberazione Nazionale, con la coalizione che si è creata appunto in occasione delle elezioni del 2006, dovrebbe andare a questo appuntamento con il vento in poppa. Quindi sicuramente un aspetto positivo in questi quattro anni bisogna sicuramente appunto rilevarlo. C'è stato, fin dall'ingresso ovviamente immediato del Nicaragua nell'ALBA, quindi un legame a doppio filo con il progetto messo in piedi da Chavez in Venezuela con tutti gli altri degni rappresentanti, il che sicuramente ha dato una svolta positiva anche dal punto di vista della credibilità, perché sicuramente alcune cose, anche dal punto di vista delle infrastrutture in Nicaragua, sono state fatte. Dico questo perché a volte c'è il rischio di cadere in una valutazione troppo ideologica, anche se diciamo la nostra posizione ovviamente non è quella di considerare tutto oro. Tutto oro quel che viene da quel paese e da quello che il governo di quel paese sta facendo, però ci sono dei riscontri effettivi che vanno sicuramente considerati. Tutto questo in un contesto in cui ovviamente non c'è un avallo internazionale del tutto favorevole al Nicaragua, perché comunque Daniel Ortega, e sul personaggio ci si può ragionare, si può approfondire tranquillamente, è comunque un personaggio che è legato nell'immaginario collettivo non solamente delle persone che lo votano, ma anche di chi gli è avverso, anche quindi dal punto di vista della politica internazionale. È comunque una persona che rimanda all'epoca della guerra, agli anni 80, alla lotta armata e tutto quel che questo ne consegue, ed è anche un fattore di campagna elettorale, perché comunque e questo poi i compagni che sono qui magari ce lo potranno dire con maggiore dovizia di particolari, si respira ancora un'area di Nicaragua, un'area di confronto a volte molto, molto violento, perché anche dal punto di vista generazionale le persone che hanno vissuto quel periodo sono ancora vive e vegete, sono attive nella società, nella politica, nell'economia, e quindi è anche un argomento che risveglia degli antichi attriti. Questi sono i numeri, dal punto di vista proprio di quello che ufficialmente il governo dirama o la propaganda del governo, a seconda di come la si vuol vedere. C'è stato sicuramente un avanzamento, una crescita del paese. Questo lo dimostra sia una valutazione strettamente economica, quindi una crescita del prodotto interno del PIB, quello che qui è il nostro prodotto interno lordo in America Latina, il PIB, prodotto interno bruto, che fa rileva sicuramente come siano state anche recuperate delle vecchie esperienze della decada sandinista degli anni 80, come quello per esempio delle cooperative. Quindi un impulso anche al cooperativismo, c'è stata una crescita intorno al 30-40% delle cooperative, della nuova formazione di cooperative, e quindi di come anche possono essere sostenute, che dà anche un'indicazione anche sociale, per cui c'è un ritorno anche a recuperare delle forme di economia che non sono legate alla tragedia del neoliberismo che ha attanagliato questo paese per 16 anni. Il Nicaragua appunto ha visto dalla sconfitta del Frente Sandinista nel 1990 un periodo di avvicendamento via via di governi di destra che progressivamente hanno abbracciato sempre di più le politiche neoliberali molto in voga negli anni 90, per rimanere al nostro nel contemporaneo, ma altro non era che forme di capitalismo selvaggio già sperimentate negli anni precedenti, per cui appunto la situazione economica e sociale di quel paese era quella tipica di un paese in via di sottosviluppo, come si dice appunto, che è aggravata e appesantita dalle politiche neoliberiste, come appunto quella dei fallimentari trattati di libero commercio dell'ALCA e via discorrendo. Quindi si trattava di ricostruire anche un tessuto sociale che potesse ritornare, anche se non in forma, se non al 100%, a quella forma già sperimentata negli anni del governo della giunta rivoluzionaria sandinista, che vedesse appunto più partecipazione da parte della popolazione. Ed è stato fatto anche da un punto di vista formale. I comitati di difesa, non c'erano più i comitati di difesa della rivoluzione, ma ci sono dei comitati che in un certo senso li assomigliano e cercano di riportare un po' le istanze delle persone, della popolazione, delle persone in carne ed ossa, i problemi concreti delle persone alle istanze del potere, che in teoria dovrebbero esserle molto, molto vicino. Questo possiamo dirlo con assoluta certezza, che è avvenuto anche grazie ad una strategia ben precisa del Frente Sandinista, che è riuscita a spezzare il fronte della destra, quindi a fare in modo che la destra non si presentasse unita alle elezioni, e a far entrare nella coalizione della Nicaragua Unita Triunfa anche delle formazioni politiche fino a pochi anni fa avverse appunto allo stesso Frente Sandinista, delle formazioni, piccole formazioni di ispirazione cristiana o piccoli partiti che appunto prima facevano parte invece della coalizione di centrodestra. Questo va detto perché effettivamente dobbiamo anche vedere come la metamorfosi che c'è stata nella preparazione alle elezioni del 2006 e come poi invece alcune cose sono state poi attuate. basterebbe parlare un po' del, diciamo, del matrimonio con la Chiesa cattolica, che negli anni passati invece era quanto di più retrivo ci poteva essere in quel paese, e mentre invece a tutt'oggi vediamo che l'85esimo compleanno del famigerato cardinale Obando e Bravo viene festeggiato in compagnia di Elena Ortega, della moglie, quindi in una forma di reciproco di reciproco elogio e di reciproco sostentamento ad andare avanti. Quindi tutto questo fa parte anche di una metamorfosi, di un adeguamento ai tempi, anche se poi nella sostanza bisogna rilevare che molti dei programmi del governo hanno prodotto dei buoni risultati. Questo lo dico perché la sottolineatura così marcata di questo elemento cristiano, cioè il governo sandinista viene sempre presentato, qualsiasi iniziativa del governo sandinista viene presentato sempre con questo con questa triade di aggettivi, che è cristiano, socialista e solidario, no? Quindi un po' dentro c'è un po' tutto il contrario di tutto all'interno quasi dell'intera storia dell'America Latina, no? Però sta anche a significare come questo ecumenismo di sinistra, questo ecumenismo latinoamericano molto presente in alcuni paesi e soprattutto in Nicaragua, può dare anche dei risultati. Non parleremo, credo, oggi di quello che è stato un po' l'elemento invece negativo che abbiamo da sempre riscontrato, o da sempre, meglio, da quando c'è stata la campagna elettorale, anch'essa poi frutto di un cambiamento, di una metamorfosi all'interno del partito, di un elemento molto, molto negativo, che è quello relativo all'aborto, per cui il Nicaragua, che era un paese che aveva la legge sull'aborto la più antica dell'America Latina, invece è stato cancellato, e questo ha creato non pochi problemi sia all'interno del paese sia che al di fuori. In alcuni paesi, per esempio dell'America Latina, molte organizzazioni di donne, molte organizzazioni di diritti civili hanno osteggiato questa scelta, che noi continuiamo a ritenere nefasta, del frente sandinista. C'è comunque da rilevare un elemento sempre molto importante, che è quello appunto, come si diceva prima, dell'inserimento subito immediato nell'ALBA, il che ha significato, ovviamente, anche se un proposito subito realizzato di creare una coalizione latinoamericana molto, molto più ampia e molto più nobile dal punto di vista politico, ma anche di un immediato anche risultato economico, perché appunto questo ha potuto contare sui molti aiuti del Venezuela di Chavez. Y dicevamo appunto come questo mandato elettorale ripresentato con un personaggio conosciuto ma con un programma quasi del tutto inedito rispecchia un po' anche appunto la personalità di Daniel Ortega e del governo che presiede, nel senso che è stato e continua ad essere comunque un mandato di luce ed ombre, così come quello della stessa persona di Daniel Ortega. Questo va detto e va sottolineato perché è molto importante, comunque significativo, inutile ripeterlo, quanto la figura, il caudillismo sia importante, appunto significativo in America Latina. Ossia, la stessa persona può un leader carismatico, per usare una frase ad effetto, può appunto essere, può dividere in forma, può dividere in maniera abbastanza profonda, perché all'interno e intorno all'interno del Frente Sandinista, intorno alla figura di Daniel, si sono appunto serrate le fila nel corso di tutti questi anni, fino a, diciamo, a legittimare la quarta candidatura alle presidenziali dopo che aveva perso appunto in precedenza, questo facendosi anche forte, diciamo così, di esperienze molto conosciute, come quella più recente di Lula e quelle più drammatiche del passato di Salvador Allende. Quindi la figura stessa di Daniel racchiude un po' quello che è il contesto politico in Nicaragua, ossia una persona che comunque è molto, molto discussa e molto, molto discutibile anche per i suoi trascorsi personali, e che comunque ha con sé ancora un seguito, uno zoccolo duro del paese che lo segue sempre comunque. E comunque questo gli va dato atto, come abbiamo detto anche altre volte, perché comunque Daniel è una persona, è un leader politico che non smette mai di coltivare questa immagine che la popolazione ha di lui. È una persona che conosce molto bene il paese anche dal punto di vista geografico, una persona che non disdegna, malgrado le sue precarie condizioni fisiche. Qualcuno dice che sia solamente un burattino nelle mani della moglie, perché effettivamente sia Rosario Murillo la persona che veramente governa il Nicaragua. È comunque una persona che conosce le viscere del paese e della popolazione, riscuota ancora quel successo da vero e proprio caudillo che è molto importante, ha il suo peso nel momento delle scadenze elettorali. Luce ed ombre perché, se da una parte, anche e credo che si riproporrà adesso in tema di campagna elettorale, ha sempre mostrato una faccia aperta, più nuova rispetto appunto alle coalizioni anche un po' avventurose con settori della Chiesa molto, molto discutibili, se ha diciamo fatto l'occhiolino al libero mercato, quindi non ha smesso di intrattenere con accordi commerciali anche con paesi discutibili, anche se ha civettato un po' con l'impresa privata, no? Quindi anzi, forse più che civettare, ha fatto anche lì, ha un po' stravolto tutta la storia, che per quanto era innovativa non così aperta, diciamo. Intorno a questo si lega un po' appunto un po' i chiaroscuri del governo, di questo mandato elettorale e del paese in generale. Comunque vale la pena ricordare che, in virtù di una serie di accordi all'interno del Parlamento, di modifica alla Costituzione e alla legge elettorale, il Frente Sandinista paradossalmente nel 2006 ha vinto con la sua percentuale minima, col 38%. anni prima aveva perso con una media molto, molto più alta, no? Quindi la strategia inseguita, appunto, come si diceva prima, inseguita per anni, di rompere, di dividere il fronte, di dividere la destra, ha dato i suoi frutti. Ed è riuscita anche, grazie anche ad una nuova ondata, possiamo chiamarla così, una ola progressista che c'è stata in America Latina, anche questo andrebbe discusso, approfondito ulteriormente, però tagliamola così con l'accetta per nostro comodo, ha potuto rispolverare anche alcune vecchie bandiere del sandinismo, come appunto quella del cooperativismo, come quella di far partecipare i comitati di defensa e via discorrendo, quello di mettere nel piatto del governo da offrire alla popolazione alcuni appunto dei piatti forti, come per esempio, questo anche va rilevato, da subito ha reso l'istruzione, la sanità accessibile a tutti. Questo anche dal punto di vista dell'immagine, della comunicazione, è stato qualcosa che ha avuto un suo impatto. È anche vero che però rimane un personaggio legato ad una ad un establishment forse un po' sorpassato, perché se è vero che riscuote ancora tantissimo successo, questo decreta anche forse il fallimento. Questo va detto proprio dal punto di vista dell'analisi politica di come si è sviluppato in questi anni il fronte sandinista, e decreta anche il fallimento di non aver saputo costruire, di non aver saputo presentare delle nuove personalità, dei quadri importanti che potessero comunque ricalcare le orme dei padri della rivoluzione. Va detto anche che molte persone che avevano partecipato, comandanti che avevano partecipato alla lotta armata e poi hanno ricoperto incarichi importanti durante la giunta rivoluzionaria, si sono via via allontanati dal fronte sandinista in maniera spesso a volte molto critica, insomma. Quindi questo va detto a onor del vero, perché non comunque secondo noi non serve tessere le lodi di un governo, anche se appunto va detto che molto ha influito, come in molte altre situazioni, come quella cubana, come quella venezuelana, è la potenza dell'informazione relativa a quello che succede in tutta l'America Latina. Questo perché, per esempio, si è parlato di brogli elettorali in occasione delle elezioni municipali di qualche anno fa, stravinte dal Frente. Ci sono stati denunciati dei brogli elettorali che poi sono stati smentiti, ma questo ha significato una interruzione di accordi e quindi di aiuti finanziari da parte della comunità europea. Appunto, non crediamo che sia redditizio, che sia proficuo sdraiarsi su posizioni filo governative, perché non è mai stata la nostra posizione, però va anche detto che appunto una crescita, un avanzamento sotto i vari punti di vista, questo sì, c'è stato. Poi vedremo magari più nello specifico come viene vissuto anche o come non viene vissuto, perché cioè il Nicaragua è comunque un paese dove ci sono angoli reconditi, dove l'informazione non arriva, dove quello che succede a Managua o nelle altre grandi città per modo di dire, comunque grandi agglomerati urbani, molto di quello che succede nella politica centrale non arriva. Quindi a volte ci sono due o tre livelli di esistenza all'interno dello stesso paese, e questo succede anche in molti altri paesi dell'America Latina. È vero comunque che i risultati comunque si vedono, tant'è che a giorni verrà dichiarata la candidatura di Daniel Ortega per appunto le elezioni presidenziali del 6 novembre, in occasione di un congresso straordinario del Frente Sandinista che, malgrado la diciamo quarantennale esistenza, e questo mi sembra il quarto congresso che è il quarto congresso straordinario, quindi questo dice anche molto sul tipo di formazione politica, di come in realtà è strutturato il partito. Vale anche dire che, togliendo gli anni ovviamente della lotta armata, togliendo gli anni della guerra, dove non c'era ovviamente tempo per congressi del partito, anche è vero che forse un vero serrato anche confronto interno è mancato, se non in momenti molto, molto particolari, insomma. La cucaracha. Ya no puede caminar, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha, ya no puede caminar, porque le falta marihuana que fumar. Ya se van los carrancistas, ya se van para Perote, y no pueden caminar por causa de sus bigotes. La cucaracha ya no puede caminar, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha ya no puede caminar, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha ya no puede caminar, porque le falta marihuana que fumar. Ya se van los carrancistas, ya se van para Perote, y no pueden caminar por causa de los bigotes. Hacer una toquilla y la fibra no me alcanza. Le voy a cortar las barbas a Venustiano Carranza. La cucaracha ya no puede caminar, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha ya no puede caminar, porque le falta marihuana que fumar. Ed eccoci di nuovo in diretta. Prima di proseguire questo racconto della situazione attuale in Nicaragua con l'Associazione Italia Nicaragua, vi ricordo che questa radio libera, autogestita, indipendente, non ricava soldi da padroni o pubblicità, e quindi si regge sul sostegno di chi l'ascolta e di chi la fa. E quindi chi volesse contribuire facendo delle sottoscrizioni alla radio può farlo tramite conto corrente postale, intestando sul conto numero 61804001, intestando il bollettino a Radio Onda Rossa, via dei Volci 56 00185 Roma. E quindi torniamo in diretta. Abbiamo appunto appena terminato una breve panoramica sulla situazione in Nicaragua in vista delle prossime elezioni presidenziali, che appunto vedranno ripresentarsi l'attuale presidente del Fronte Sandinista di Liberazione Nazionale, Daniel Ortega. Ora, prima di passare al racconto della loro esperienza in Nicaragua appena terminata, di due compagni dell'associazione, facciamo un po' una precisazione su quello che è successo recentemente per quanto riguarda i rapporti tra il Nicaragua e l'Honduras, rapporti che si sono particolarmente raffreddati dopo uno sconfinamento delle truppe nicaragüensi nel vicino stato, nel Costa Rica, che appunto è confinante con l'Honduras, col Nicaragua. E appunto, che cos'è successo qualche mese fa? Ma quello che è successo e che sta succedendo è un po' un tema che ciclicamente si ripropone su quella frontiera, che è segnata a sud del Nicaragua dal corso di un fiume che è il rio San Juan, che prende origine dal lago, il lago dove c'è l'arcipelago appunto di Zapatera, di cui poi parleranno dopo i due compagni della loro esperienza. Diciamo, è un tema ciclico, perché viene ormai da un po' di anni riproposto, e questo bisogna dire ultimamente per un po' l'insofferenza del Costa Rica a non riconoscere i reali confini che sono stati, questa è una storia bicentenaria, perché la vicenda del Rio San Juan risale a un secolo e mezzo fa, quando poi tra l'altro c'erano le scorribande di Walker in quella parte di paese, quindi risale a più di un secolo e mezzo fa, con varie risoluzioni fino all'ultima, che c'è stata nel 2009, mi sembra, che stabiliva appunto i confini, per cui il fiume, il Rio San Juan, è nicaragüense. Questo è un è diventato anche uno slogan nel corso degli anni per rimarcare anche diciamo lo spirito genuinamente nazionalistico di questa battaglia. Vale la pena ricordare che comunque la storia del Nicaragua, come di tanti altri paesi, è una storia anche giovane dal punto di vista proprio della struttura come nazione come paese, perché la decolonizzazione è in realtà storicamente avvenuta poco tempo fa. Quindi alcuni temi che per noi suonano molto molto strani, con questi continui richiami alla patria e via discorrendo, in realtà hanno radici proprio in questo periodo di decolonizzazione, che è ancora molto vivo e presente nella popolazione. Quindi quando pochi mesi fa il governo sandinista ha messo delle truppe, dei militari a controllare il fiume, anche in virtù del fatto che quello è un passaggio molto ambito e battuto dai narcotrafficanti, il Costa Rica ha pensato che invece il Nicaragua stesse facendo delle operazioni militari al di fuori dei propri confini. Quindi c'è stato un richiamo a livello internazionale. Il Costa Rica ha convocato il presidente degli Stati Uniti, dell'Organizzazione degli Stati Americani, Miguel Insulza, che notoriamente non è un amico dei governi, diciamo così, progressisti dell'America Latina. Fermiamoci qua con le definizioni. E quindi ha scatenato un po' l'ennesima scaramuccia tra questi due paesi, che è anche degli elementi simpatici, diciamo, come ma molto pittoreschi, come per esempio una lamentela ufficiale del governo nicaragüense all'impresa Google, perché praticamente nelle loro mappe mettevano il Rio San Juan in territorio costaricense, mentre invece, a seguito appunto di questa lamentela, hanno pensato bene invece di rimetterlo nel loro legittimo spazio. Questo è un vale anche la pena dire che è un tema che fa molto presa anche in un momento di campagna elettorale come questo, no? Perché va anche detto che il flusso migratorio che storicamente c'è dal Nicaragua al Costa Rica anche ha purtroppo prodotto delle situazioni molto molto drammatiche, perché le condizioni di molti nicaragüensi che vivono in Costa Rica come immigrati non sono delle più belle, no? Quindi ci sono tante testimonianze anche sotto questo punto di vista. Quindi c'è anche qui un un tema che è ricorrente anche in, in tanti altri paesi della, del subcontinente, di attrito frontaliero, insomma, no? Va detto che però, a scanso di tutti gli equivoci, che l'AIA ha stabilito che Rio San Juan è nicaragüense e che le operazioni militari su quella parte di territorio non sono una, non sono di, diciamo di pericolo per il Costa Rica, che comunque ricordiamo che è un po' il, un'altra stella della bandiera nordamericana, no? Quindi non, negli ultimi anni non si è certo contraddistinto per vicinanza al Nicaragua. Vale anche la pena ricordare alcune posizioni riguardo l'Honduras e via discorrendo. Questo, diciamo, questo link geografico ci dà la possibilità appunto di passare invece più nello specifico dell'esperienza che i compagni hanno avuto durante praticamente quasi tutto l'anno passato in una comunità, in alcune comunità di un arcipelago del lago Nicaragua, con il lago Cosibolca, una comunità con le quali noi come associazione stiamo intrattenendo rapporti, stiamo collaborando, e quindi passerei immediatamente la parola a loro per avere un po' il senso anche più pratico e sentire anche le loro osservazioni dal vivo e dal di dentro. Bene, allora ora sentiamo direttamente da questi compagni che sono stati appunto su quest'isola, l'isola Zapatero, dentro questo lago nel sud del Nicaragua, il lavoro che hanno fatto e le impressioni che hanno avuto anche sulla situazione in Nicaragua direttamente dovuta alla loro presenza lì. Vado. Ok, ciao a tutti, siamo Sergio e Sabrina, appunto siamo tornati da poco dal Nicaragua e dall'America Latina, e dove insomma abbiamo fatto questa esperienza di volontariato su quest'isola, nel lago Nicaragua. La comunità che abbiamo seguito e su cui lavoravamo, che era fondamentalmente di sostegno a quelle cooperative a cui faceva riferimento Massimo, che ultimamente hanno avuto un certo rilancio, ma che in realtà è un modo di lavorare molto diffuso in Nicaragua. E, insomma, il nostro tipo di progetto, di appoggio là, era appunto dare sostegno a queste comunità, comunità di gente che vive in condizioni molto precarie sopra quest'isola, praticamente senza... Con poche o quasi nulle risorse, fondamentalmente. Perché come associazione appoggiamo queste comunità? Bisognerebbe un po' un attimo riprendere anche il discorso della storia del Nicaragua, perché fondamentalmente, rivedendo un po' la storia di quello che è stato la fine della guerra nel 90, di fatto è successo che soprattutto nel nord del Nicaragua, più al confine con l'Honduras, dove la contrarivoluzione era più forte, questa gente che viveva, che aveva combattuto, questi ex combattenti, questi ex militari sandinisti che avevano combattuto per il proprio paese, di fatto, contro le invasioni che venivano dall'Honduras, della Contra e quant'altro, nel 90, con la fine con il Frente che perde praticamente il potere e quindi con la pacificazione che è seguita, si sono ritrovati in una situazione di pace fittizia, in cui erano però continuamente vittime delle rappresaglie della Contra, che di fatto doveva dismettere le attività di guerra, ma in realtà continuava a fare scorribande, quella che viene definita poi come recontra, cioè praticamente si riorganizzavano questi gruppi paramilitari, diciamo, e compivano scorribande nei confronti di chi si era distinto come sandinista in tutti gli anni 80. Dunque, quindi questa gente di fatto si è trovata costretta a lasciare le proprie terre al nord del Nicaragua e a rifugiarsi più a sud dove la situazione era più tranquilla, e si sono trovati ad andare praticamente in questi molti si sono rifugiati in quest'isola del lago Nicaragua, che appunto è l'isola Zapatera, appoggiati da associazioni di cooperative già presenti in questa zona. Possiamo dire che circa 3-4 mila persone si sono dovute spostare e scappare fisicamente, perché appunto nei loro luoghi di origine non era più possibile vivere, e ad occupare queste terre, queste isole, dove però di fatto non c'era nulla, erano costretti, cioè non c'era acqua potabile, non c'era corrente, non avevano proprio a volte anche le condizioni minime di sopravvivenza, neanche per loro o per i loro figli, perché stiamo parlando di famiglie intere che si sono spostate dal nord. E questo a questo poi si aggiunge il fatto che i governi liberali dell'epoca, non vedendo di buon occhio questa invasione di terre da parte di questi ex combattenti, più di una volta li hanno osteggiati in tutti i modi, deportandoli di nuovo al nord, ad esempio, oppure insomma comunque cercando sempre di impedirgli di costruirsi una vita su queste terre. E quello che appunto abbiamo fatto come associazione come insomma il nostro progetto è cercare di dare una mano a questa gente che in questo momento non vive più quelle situazioni così drammatiche, perché forse anche grazie al fatto che c'è stato un cambio di governo non sono più così osteggiati, però continuano a vivere in condizioni abbastanza difficili. E loro sono in pratica, mi dicevi prima, agricoltori, pescatori, quali sono le cose che fanno queste cooperative? Sì, di fatto sono appunto organizzati in cooperativa, perché appunto ce l'hanno molto come tradizione e come formazione, appunto da quello che deriva dagli anni Ottanta, e sì, sono essenzialmente pescatori e agricoltori, però agricoltori con molte difficoltà in un territorio dove è molto roccioso, dove le condizioni dell'agricoltura sono difficilissime, e pescatori improvvisati, nel senso che questa gente è abituata a vivere al nord come coltivatori essenzialmente di caffè, perché essenzialmente in Nicaragua la produzione del caffè o della canna da zucchero avviene soprattutto nelle regioni del nord. Loro, ex agricoltori abituati a un certo tipo di agricoltura, si sono dovuti reinventare un'esistenza completamente nuova in queste terre poco produttive dal punto di vista agricolo, e quindi anche a fare i pescatori, cosa che non avevano mai fatto prima in vita loro. E quindi sì, sono organizzati fondamentalmente come agricoltori, cercano di fare un po' di pesca e si organizzano anche, sono organizzati anche in collettivi. Ad esempio è molto forte, molto abbastanza ben organizzato un collettivo di donne che produce artesania, che cerchiamo noi di vendere qua in Italia quando possiamo, insomma. Thank you. Ebbene, siamo arrivati alla fine di questa trasmissione di Latinoamericana, la trasmissione d'approfondimento sull'America Latina del Comitato Carlos Fonseca. Abbiamo avuto il piacere di avere oggi ospiti in radio i due compagni e una compagna dell'associazione Italia-Nicaragua. Noi ci risentiamo come avviene appunto di solito ogni lunedì dalle 17.30 alle 18.30 sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Ora lasciamo i microfoni di questa radio al Tappabuchi, la trasmissione preparata dall'Assemblea Coordinata e Continuativa contro la Precarietà. Alle 19.30 seguirà il GR e poi la consueta programmazione serale del lunedì di Radio Onda Rossa. Noi vi ringraziamo tutti e tutte quelle che ci hanno seguito. In particolar modo salutiamo chi lo ha fatto privato della propria libertà personale. She just keep telling me things I don't wanna hear. She just keep